voglio che ti ascolto e tu mi ascolti. Da dove sei? Sì, qua, sì. Andavo. Dai, Gianni. Spagnolo, sei che uguale anche tu. Più o meno, dai. Già. Ora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Guarda la differenza, da questo microfono a questo qua. Qua si sente più rimbombante, il secondo è più rimbombante, il primo è meglio. Questo come è? Ah, va bene, un pochettino più rimbombante, meno forte. Tira l'attacco. L'MC60 spinge bene col Kenwood. Va bene, sì. Scendo giù a vedere se sta andando questa cosa. Andale. Avanti Gianni. Gianni, cambio. Ehi, allora, stavo mettendo a posto, stavo buttando quei rispettori, se no li vado a ricercare e rimetto qui di qua. Ma buttare via quelli che non serve, da pensare. Se ce li buttata. Ma sono, erano quelli, capito, già pronti. Non servono nulla, ci ho messo l'ho fatto da me adesso. Non è comprare, si sciolgono dentro. Però dai, il palo caldo col palo freddo e toccano a marcia, fanno a marcia. Non servono qui. Come sei fra in campagna? No, negativo, a casa qua. Ah, a casa tua sì. Ehi, capa, sono salito stamattina perché devo fare le commissioni. Poi stavo facendo la guida alla macchina e tutto adesso. Sono a casa. Comunque il segnale è buono, 9.30 sì, qua fare. Vabbè, anche tu sei 9.10, dai, più alto rispetto a quello di campagna. Vabbè, tieni conto, io sono con 4 watt riportante, sei mollati e sono col baracchino, quindi no, non ce n'è problema. Vado a portare sull'altro, sto uscendo con questo qua, con questo anagno qua, capito? No, va bene. Sì, ho adattato questo... Non lo di più 4, ma non mi piace niente con la moderazione. No, perché va bene, perché va male, va benissimo. Ciao Claudio. Ah, va bene, ciao Tony, buonasera. Buonasera, che per uno e chi c'è rotto? Sono io, Gianni Doppio Rum, poi c'è Antonio Bombolo e Franco California. Primo momento. Franco, come mi ascolti? Non mi ascolta. Sì, ci avesse... Mi ascolto un basso a Torino, ho capito perché, Giacco. Forse sono ancora negativo a Torino. Anche perché sto pilotando con un bipolo a doppia velocità qua. Santiago sì, mi sta arrivando. Ti ascolta, Santiago sì. Avanti, bombolo. Ehi, capo, mi sono appena sceso giù a vedere la pasta al forno. Eia. Io Franco già lo sento bene. Vuol dire che il negativo per te. Buonasera, Tonino. Ciao Antonio. Pasta al forno. Ne ho 4 vaschette in freezer che me lo sono fatto l'altro giorno. Stasera mi sono fatto la melanzana al forno. Dato baciamba, avanti qua. Negativo per chi altro? Per me? 9.10 Franco qua. A te la tutti le vendi, dimmi di me. No, è negativo per Tonino magari. Anche la campagna, tutte le parti. E ti ripeto, sono con pochi watt e il baracchino. Se attacco il campo lo sento ancora meglio. No, io non ho problemi, no. Lo sento sempre, perché forse sto sempre favorevole a lui. Perché sei più vicino tu di me a Franco, California. Beh, no, ma io non ho problemi manco la campagna, non ho nessun tipo di problema. Lo senti bene lo stesso e vuol dire che lo senti bene. No, qua arriva benissimo sia la campagna che la casa sua, non c'è un problema. E allora, Donino. Un po' di riposo, noi marchi oggi sabato qua. Quindi, e domani ci riposiamo. Che notizie ti posso dare? Che il 14 gennaio sto partendo. Me l'hai già letto. Benissimo, almeno ci stiamo in tutto, dai. Ma ti ho detto che vado insieme a Manuele. Ma hai detto? Che parto insieme a Manuele. No, anche lui viene. Si opera anche lui, ci opera insieme. No, ma con i ravini fanno zucco, dai. stai? Uno zombie come cammina. E poveraccio, allora è messo più male di me. A me mi fanno dire, mi schiamazza, un paglietto, lui qualche giorno in più perché mi devo mettere due stabilizzatori nella spina dorsale. Ah, è un'operazione molto delicata, mamma mia. Infatti mia moglie ci deve fare anche l'altro, Piero, ha detto, oh, ma lo tengo così, e fai come te ne piace. Problemi tuoi sono. Io, se avessi avuto quello che c'era, cioè, dovevo subire qualche operazione, l'avrei fatta subito. Non temo assolutamente niente, non me la frutti nulla. Avanti, Gianni. Sacco per me. Ora io, che ho bianco per me, nero per me, celeste per me. Controllo la parte al forno. Ehi, adesso devo andare a controllare il forno, dai. E poi devo fare un'altra cosa. Va bene, va bene. Noi qua siamo. Perché la pasta al forno sempre si controlla. Si muove il forno già così, non asura. Qualche volta si può guardare, boh. C'è tra un secchino. Se tutto ok, è asciutto, ok. Vabbè, ma lui penso che stia controllando il sugo, non lo so, ma ne ha dati pari, è torra. Avanti, frate, prendi. E stato il cielo, che attorno è stato molto basso, non capito perché. L'importante è che mi senti di voce, fra. Sì, ma infatti, basta lo senti di voce, o già abbiamo fatto il geniale. Lo senti di voce? Sì, sì, e a volte c'è un po' di CRM, me la compro. Sicuramente mi sto rendendo la negativa per lui. Sicuramente, fra, ma cazzo, non te lo segnare io, come mettilo di polo. Mettilo, togli la voi invertita, mettilo a polarizzazione orizzontale, togli la voi invertita, lo metti a polarizzazione orizzontale e vedi che ricevi tutto. Ma lo sa, Franco, che te lo sono io, sì. Puoi passare dalla sono quindi fuggi, ma guarda che non è a Sassari, Tonino, E dove? Su, nella zona di San Camillo, è distante da te, non è attaccata a te, no? Sicuramente questo lui è puntato alla direzione sua, mi ha capito qua. Qua c'è 9 più 10, qua arrivi molto bene. Sì, quando manca l'antenna sul tetto. Appena che ci sono, non so se ci metto l'antenna. Di che zona è qua, Franco? Franco è al monte. E allora quando smette l'antenna gli arriverà una bomba. Infatti. No, io di cazzo non c'è la mantova. Era una schioppettata, poi ne ha tolta. Adesso c'è un diporo, prima c'era l'antennino, capito? Un casino, Con questi condomini è un casino. Lo so, tutto. Sì, adesso che abbiamo finito, lavoriamo sino al 23, poi rientriamo il 2. E io ho il 29 e il 31 devo fare la posta. Ho tutto il tempo di farmi quello famoso dove c'è l'albergo di Limone, quello che avevamo già programmato. Tubero cinti, un pezzo tagliato, incementato, capito? Sì, ma l'autorizzazione per partire ce l'hai tu. Siamo in lockdown, come fai a partire tu il 4? Cioè il lockdown finisce il 6. Io parto il 14. Ah, il 14? Con la speranza non ci sia qualche altro decreto legge. Già lo sai che dallo 24, dallo 27 devi rimanere a casa, sì. Eia. Allora, mi sono informato anche su quello. Dunque, se io devo andare a Milano, Bologna o chi si sia a comprarmi una cazzata, no. Non posso partire. Per un'operazione così seria, sì. Sì, infatti, ho detto, ce l'hai permesso, perché se puoi partire anche prima tu. Se devi subire un'operazione, chiaramente con la documentazione Covid sicuramente alla mano. Tampone fatto, tutti gli esami fatti, eccetera. Quello sicuramente, altrimenti non ti fanno imbarcare. Però ti puoi muovere, mentre io non posso andare da nessuna parte, sono inchiodato a casa. Noi dobbiamo fare il tampone anche questo lunedì. E sono già 3, penso un po', se non c'è cosa ho fatto, ho tutti i documenti a posto, per cui non c'è problema. Di Emanuele, penso di... tampone l'ha fatto, non lo so, penso di no, vediamo. Infatti l'operazione mi operano il giorno 18, io parto il 14. Va bene, vai. Allora sei tutelato al 100%, non c'è problema. Gappa. Gianni, ci sei? Ehi, sono rientrato, era al telefono. Gappa. Chi è rimasto, Claudio? Che ho perso tutto, perché ha abbassato il volume al telefono. Antonio è andato a vedere il sciugo, poi è tratto Tonino e poi c'è sempre Franco. Avanti Franco. Sì, è passato da 9.10 a Santiago 7. Santiago 7.75, la radio è, è migliorata al 100%. Vabbè, qua sei calato, con il polo andavi meglio perché sicuramente è verso la mia zona, mentre con l'antennino piccolo sei calato a Santiago 7, capito? Però riesco ad ascoltarti lo stesso. Gianni, tu l'ascolti a Franco, sì? Sì, io sono da due passi, non vai fretta qua. È vero, se adesso pensavo che era in campagna, invece è lì al monte. Qua è con lo scala, c'è con una che con l'altra, non c'è problema. Ma Michael Di Polo è 9.10 con l'antenna piccolina e Santiago 7.8. Ma io sono remontata quell'antenna, quindi dall'altra parte, capito? Se fosse montata lato strada sarebbe arrivato molto meglio. Ma fra, se non hai il pezzo di sotto, come fai a attaccare con l'antenna? Che bello che non ce l'ha qui. Ah, ma della stessa antenna oppure di un'altra antenna uguale? Va bene, se è completa me la puoi anche dare. Da Furgo 2001 nel campo anche il bambino. Oh, Claudio. Oh, Tori. Io ho letto per Ravenna, vicino a Ravenna. E continuava, vince Ravenna. Maria Cecilia Hospital. Cazzo, è enorme l'ospedale. Se tu vuoi su Google, cavolo. Mi pare che l'ho già visto quell'ospedale in qualche foto. Sì, enorme, sì. È bello. Dentro stesso, cavolo. Veramente stupendo. Con un caso strano, ho chiesto, parlando con le Bidelle, mio collega, altre persone, l'ha operato sempre questo dottor Tresoldi, sempre lui. È conosciutissimo. Dottor Tresoldi? E chi non conosce il dottor Tresoldi? Infatti, Tresina, la visita, 150 euro. Tresina, sono 350 euro. Ma io si chiama dottor Tresoldi, capito, dottor? E per quello si chiama così. No, è molto bravo comunque, non li ho sentito parlare perché mia sorella, quella che è ad Anghera, ha subito un'operazione proprio lì, capito? Mentre l'altra invece è a Roma per gli occhi, a Roma per gli occhi, e l'ha sistemata perché lì aveva un grosso problema alla spina dorsale addirittura, non sto parlando di M del disco. Per anni e anni il busto, poi alla fine si è decisa e l'ha operata proprio quello, l'ha rimessa in sesto, è sempre un pochino acciaccata comunque, è un po' più grande di te, ha 67 anni, però prima non ce la faceva manco a camminare, capito? Gappa gappa, avanti Gianni, riprendi. Vabbè, che dire, non so cosa dire, no. Argomenti stasera, arrivano a scopo. Ehi, ehi, già, va bene, va bene. Ehi, sono già le 7:15, fra un po' stacco, tanto poi c'è la partita, c'è la Juventus, Parma, quindi ce la guardiamo, del genere. E già la cena è già tutta pronta, quindi vediamo un pochino, sicuramente no, non entro, vediamo un po'. Se mi annoia o che pigliendi, allora lo mollo in chivi e io me ne vengo a onga. Avanti fra. Cavale del Riuscito, essa conferma. Adesso sto andando con la. Ho commentato con il discorso. 9.5 aumentato, Adesso ho messo lo. Sto trattando il discorso, Claudio. Hai sentito a Torino? Qua sei sempre 9.10, a Torino 9.5 li arrivi adesso. Tu mi ha migliorato tu. E quanto ti arrivo io? Adesso sei 8, vedi, sei 5 lì. Cioè, hai spostato il dito qua. Adesso cambio il microfono, vediamo un po' se questo. Se questo spinge di più. La radio è ultima, segnale uguale, 9.5. È lo stesso, 9.5-9, sì, dai. Abbastanza buona la radio. Poi hai spostato di polo o l'hai messo in orizzontale? L'ho spostato come hai detto tu adesso. Cazzo, se tu non mi ascolti a me, non mi fare polvertita, di polo per la 27, non si fa polvertita fra. Ovviamente l'orizzontale è steso, capito? Dal filo a stendere, da una parte all'altra, boh, e basta. Così deve lavorare, perché se non fai polvertita chiudi. E infatti adesso l'ho messo verticale. In orizzontale ve l'ho tirato adesso va bene. E adesso a Torino l'ascolto, no, hai capito, poco fa, 1-2. ce lo chiudi, cazzo, un diploma a 2,75 metri, l'ho già chiudi, fra. Lascialo tutto aperto, tiro da una parte e dall'altra, lavora molto molto meglio. Vai Tony. Ehi capo, arriva bene adesso qua. Mi sa che esco, ho lo spazio, lo faccio anche io un diploma qua, capo. E ne hai spazio tu. E anche di radio ho aumentato Franco. Come mettere dall'antenna della 27 all'altra, ci sta. È così corto, mi non cambia niente. Mi. Lo puoi agganciare da un palo a un palo. È 2,75 metri, non è grande, no? Sì, lo so. Potrei fare anche 5,50 e 5,50, beh. Vabbè, ma così devi avere più spazio. No, lo metti in alto, e la calata è di 10,48. Puoi fare anche così. Puoi attaccarlo anche così, ma ne hai spazio. Se attacchi lo metti a posizione orizzontale, come ti sto dicendo io, attacchi una parte al tubo dell'antenna della 27, poi attraversi la veranda e te ne vai all'altro angolo, metti un palettino lì e lo agganci lì, secondo me esci meglio dell'antenna. Ma io potrei mettere anche l'albero di fronte a me, e l'altro palo dell'antenna. Anche, ne hai spazio, puoi fare qualsiasi cosa tu, puoi fare attraversare anche la strada e legarti all'albero. Cappa, scusa, ho trovato con la matassa di cavo di 1048, nuova nuova, agito lì, quasi quasi. Allora, ragione a farlo, una cazzata a farlo, spegni le due polarità, freddo con freddo, caldo con caldo, l'attacchi un connettore BL, l'ho fatto. Ehi, spunto, vai a stazionare, tagli in mezzo la parte, in mezzo all'altra, fino a rullare a 1-1, 1-2, vai. Sì, ma di solito quando lo fai così a misura, già pronto stazionare, non è che ne ha, io ne avevo fatto uno, l'avevo dato a Sandro, a Porto Torre, se cazzo mi arrivava a 9 più 10 da Balai, l'avevo messo a posizione orizzontale, ma ti dico che arrivava a 9 più 10. Tutti mi hanno una curiosità, Claudio. Aspetta, ma che sta chiamando? Chi è? Ah beh, Antonello La Freccia, certo che ti ascolto, basso ma ti sento. Sì, c'è un po' la radio bassa, Antonello, ma già ti sento, dove sei a casa? A casa sì, Antonello. Anche io non ti sento, basso basso. Ma che antenna vai? Andiamo, chiesto. Basso basso, sento Antonello. Dimmi Tony, cosa sta dicendo? Io sto pensando una cosa, si può fare, anziché fare col cavo elettrico 2,75, se lo faccio con le bacchettine, cioè, che sono a tubicino in alluminio, è la stessa cosa. Con le bacchettine? Io ho trovato, diciamo, bastoncini, come vuoi chiamare, se ne sono trafile, però sono bucate all'interno, di alluminio anodizzato. 2,75, fa lo stesso di polo. Ah, boh, non lo so. A Giulio Lolla lo deve chiedere. Lui è esperto in materia. Io di polio ho sempre fatti col cavo. Ho cavo elettrico e RG58. Qui che è entrato in bicicletta. Ah? È entrato in bicicletta. Luca, sali e scendi. Invece che? Cazzo, qua si è impegnato, ma niente, tutto magnacca. Avrà lui una solita perché è magro magro, buono, sono magnini. Si è magro, sì, è bello grosso, eh. Oh, io sono molto a vederlo, dopo l'ho visto era un magrolino. Ha lasciato un bel sta bene, poi alto lui sta benissimo alla grande. Dici che? Faccio mania di duccia oggi, a dotti, a bendi. Provo a scendere anch'io, ho evitato, ho già un pezzo di torta, ma non fa. Non mi posso muovere. Io mi sono messo a dieta comunque qua, sono già 4 giorni, la mattina lì non ce lo mangio più il panino, pasta non le mangio in casa, pane non le mangio e incomincio già a stare un po' meglio. Accanto ad operarmi su quello di gatto. Ma quello vuoi fare già da quest'estate, quando ci abbiamo fatto quella bella mangiata. Già da lì tu, da quest'estate, dovevi fare quello che io ti ho detto. E a quest'ora sei stato un figurino e un capolavoro, perché sicuramente i dolori te li porti, ma ne avresti risentito molto molto meno, Antonio, perché io da 92 kg che ero, ne peso 80, sono 12 kg, sono tanti, ok, adesso ho preso qualche chiletto, sono 81, 81 e 4, 81 e 5, eccetera, però rimango su quella media lì. Ma io ho migliorato tantissimo con la schiena, i dolori ogni tanto mi vengono, ma almeno non sono più pesanti come prima. E capo, e io lo sento lo stesso, non c'è problema. pesavo, come so pesato, 94, ma non mi penso se quando non devo dico le prime partite. E vabbè, ho quel cavolo di stomaco, buono, il resto, già scendo, non è la prima volta, capito? Comunque, non è mai troppo tardi, mi sto facendo prova consuma per il prossimo estate. Sì, infatti, e io 92, figurati, tu 94, io 92. Non ce la facevo più, perché ne ho approfittato tantissimo, tantissimo, sia quando era lavoro, fuori dal lavoro, spuntini, cene, a tutto andare, capito? Quindi adesso basta, proprio nel periodo del lockdown ho iniziato a calare. E sto benissimo così, non me ne frega niente. Avanti, fra. E fate un conto, te lo so fra anche tu. Dimmi Antonè, non ti sente nessuno, cazzo, dimmi. Questo va molto meglio, l'altro non c'è via nulla, questo va bene. Va bene adesso, adesso ti sento. E vabbè, ma ti ricordo dove sono io, dove sei tu. Noi che siamo molto distanti, no? E gli altri non ti sentono, Antonè. E me non puoi mettere una stampa e metterla da qualche parte fuori, non fa. Ah, di autoparlante. Vabbè, una colonnina esterna, di buone. Cazzo, se c'hai quelle serrande tu in coso, in ferro, mi sembra. Basta le metti una base magnetica e l'antenna gliela giri. A Gianni Ga, a Gianni Coso, come ti chiama? Ah, penso che fino a tuo ex collega. Ma sì, tu mi assassi, e chi glielo ripara, Antonio? E chi glielo ripara? Glielo ripara nessuno, se no... Se non va qualcuno fuori, chi è che glielo ripara? Deve sentire Arrabbio, Arcosio, quello di... come si chiama? Quell'altro che c'è? Non so, ma sa se non c'è nessuno. Alberto sempre veloce, mi attende, no? Sempre stato così veloce, attaccano fuggibile. Senza fuggibile, senza nulla, non si provano i baracchini senza fuggibile. Cazzo, se sbagli, poi messo al camion, ma lei l'ha dato 24 voci, l'aveva cribata, si arrabbia. E vabbè, per controllare, Antonè, bisogna vedere se qualche resistenza, che cos'è. Non lo saccio io, baracchini, gli usai, non è che ne è entrato assai. Mi c'ho questi in base qua, ma 220. Allora, c'ho così pure, attacchi di pino e funziona. Torino, lo senti, Antonè, no? No, vorrebbe basta. E in garage... attraversa lì zona via l'Italia, in garage con l'antenna interna, capito? Neanche tu lo senti, fra? Negativo, fra. Non ti sente nessuno, cazzo, Antonè. Che Antonè lui? Antonè, la freccia. No, io non lo conosco. Io la freccia lo conoscevo, ma non si chiamava Antonè. Ah, getta, io la vedendo Gianni, lo più rum. Antonello, X-Alto, come tu hai sentito, vabbè, è fratello di Gianni Picciritu, capito? Ex collega di Michele Polverone, tutta quella greffa. Dimmi Antonè, prova a fare da, ma se stai gente non ti intende nessuno, riprendi intanto Tony, vai. Cazzo, ma Michele Polverone non è quello, l'autista del cambio, che è solo due sole. Vabbè, è impressione, non sto parlando più, no? Beh, capo, so, sì, ma era pubblico, ce lo conoscevo. Certo, certo, certo. No, ho detto Antonello, Antonello Affrici, era collega di Michele. Capito? Per quello ho detto a Gianni, sicuramente già lo conosci. Sì, Affrici lo conoscevo a Giovanni. È buffo. Sì, vabbè. Lui ha messo Affrici perché praticamente faceva... l'azienda sua era una... lavorava con lupi, mi capito, quindi faceva vai vieni da Cagliari, capito? Va bene, vediamo un po'. Antonè, non arrivi manca l'altro campo, c'è un baracchino, io ti arrivo un gomolo. E con questo già ti sento, con l'altro non arrivi. Fra, tu non lo senti? L'aspetto basso, più qua. Io lo so che c'è dentro il garage, però ti ha giusto buono, c'è un'antenna attaccata alla serranda, a base magnetica, vedi che ti, già ti sentono la vialità. Non c'è bisogno di metterla sulla macchina, ti ha giusto, attacchi la base magnetica alla serranda, l'antenna la poni dritta, che si può muovere, c'è il moto che si muove. Ah, è vero, tu ce l'hai sotto il tunnel, devi scendere sotto. pensavo ci avevi quello affacciato, va. Capito, ti ho. Devo fare girare la rotta, Antonio, aspetta un attimo. Vai, fra. Ciao, sono riuscito a ascoltarlo. Pensavo di fare ore, poi di nuovo sparito. Mi si conferma, se l'ho tirato ancora comunque lo sono solo. Non mi sono più grigio adesso, dovrebbe andare meglio. Anche sto pilotando che sono mesi più 4, avevo un caso andando, tutto qua. Ah, vabbè, ciao Antonio, ci sentiamo dopo al limite, vai. Se no rimango gli amici in bianco, poi non ti sento. No, adesso va bene, adesso va bene, fra. Ma già da poco fa. Tonito, senti bene a Franco, sì? Franco, sì, perfetto. 9 e 5, la fa una grinta, 9 e 5. E anche io riesco a sentarlo bene. E noi, questo mio qua, la radio 5, quindi. Abbastanza buono. Se facciamo un certo caso, sicuramente con la pena non è andata. Non è la pensata nella tua direzione. E sì, vai, Gianni. Allora, non sentivo più anche io, provo anche a attaccare l'amplificatore dell'antenna, ma non sentivo più. No, qua io lo sento 7-8, ma perché qua è via l'Italia, capito? È via Budapest, là in quella zona, quindi ce l'ho vicino. Dai, guarda, io le melanzane mi sto aspettando. Va bene, dai, non proseguo, state bene. Ciao, la freccia si mi ascolta, se c'è ancora in ruota. Ciao Franco e Lucia Claudio. Ok, noi ci sentiamo la prossima, state bene, corretta con la parte mia. Ciao ciao. Ciao Tony, ciao, un abbraccio. Niente, dai, speriamo di sentirci o di vederci prima di Natale, prima che chiudano tutto, a prenderci un caffettino. Ok? Domani mattina come sei messo? Io sono libero, se ci vogliamo vedere la mattina ci abbiamo il caffettone. Ma ti chiamo io appena ho finito di sistemarmi le cosette giornaliere, diciamo, eh. Capito? Appena ho finito, magari per c'è il caffè ci facciamo un aperitivo, ok? Va benissimo, anche l'aperitivo non c'è problema. Ok. Va bene. Non c'è problema. Dai, ci sentiamo domani mattina. Non so a che ora, ma già ti chiamo domani mattina. Avanti, fra. Ciao Torino, buonasera, buon tutto, buon carico anche agli ascoltatori del Torino. Ciao. K di Roggio, va bene che va bene, dai. Allora già mi riprendi, che ora sono? Già le 7:30 sono. Dai, alle 8 scendiamo tutti, dai. Cosa c'è oggi alla televisione, qualcosa di bello? Sabato oggi, non so, Roger, tu sei che vale se non c'è più, non so già. La verità, no, io il cane volevo portare, mi stava uscendo mia figlia con un lampo e se lo portano stasera, così lo fanno camminare un po' di più. Scusate, sì che c'è, tu sì che vale se stasera, là. Ah, c'è? E allora mi guardo quello io. Mi guardo quello, poi da 3:30 però c'è la partita, vabbè, quello inizia alle 9:30, mi pare, quindi... Ho tempo anche di guardarmi un pezzo di partita, non c'è problema. Dovrebbe essere una replica comunque, non so, l'ho detto ma non ero molto assiduo quando ho letto la televisione. Ok, continuate, buon proseguo, ciao. Ciao Tony, grazie. Avanti, fra. Ok, mi sa allora, sul Rai 2 c'era il pistolero che da pistola, e c'è, in Italia 1 la donna che da pistola. Tu sei peggio di chi si vende a rimontarli vicino a lui in una bancarella, per esempio a montate, slip, eccetera eccetera. E l'hanno fatto l'intervista all'antenna 1, quando c'era l'antenna 1, e l'hanno detto buongiorno, che cosa la stanno prendendo? Io prendo montate, di giorno le prendo, di notte le tolgo. Ma la moto non la senti già? Aspetta, ho cambiato postazione e questo è il caffè. Sì, anche stamattina l'ho usata. Ma che moto c'hai lì? Sì, ne ho 2 o 3. Sì, ho 20 maxi, perché? Sì, che maxi non ho mai più. Perché gli altri. Non c'è tutto, però ci vediamo che te lo racconto. Ho preso quella 4 ruote anche. La primaria di me è capoteggio, a sera sono andate. Oddio, tu vedi la vita. la chiamo di là, non sono più tecnico di tenere questa cosa qua. Uno prende le cose necessarie e basta, prima li scritti già meglio tutti, non è, ne ho avuto 4 o 5 di morte io, già lo sai. E io ho problemi in tutto il corpo, ho la artrosi in tutto il corpo, mani, schiena, piedi, gambe, schiena, lui lascia perdere, la mattina quando mi alzo mi devo stiracchiare, sento trac, trac, trac, trac. Quello è tutto, tutto l'aria della morte, mare morto, umidità, tutte queste cose. Il mare morto. Ma questo lo facendo? No, non mi sto piano, non mi sto piano la Puglia perché il tempo c'è fuori di andare. Non ho più la Puglia, non mi ispira. Quando fumavo mi accendevo la sigaretta e mi passavo il tempo, ma che non so cosa fare, quando lancio che sto aspettando non so cosa fare. No, va qui lì, qui alla cosa, la rotonda. Non c'è un muratino, 700 grammi. Luca mi stava dicendo che ho sentito un pettine e ne hanno preso due belle grazie. Ma io l'ho preso a Genova, allora lui si è uscito alle 10 e si è agganciata praticamente alle 16. Sì. E adesso magari che non c'è gente, che si fa il bagno, si avvicinano un po'. Ma adesso dovrebbe essere il periodo delle uova. Si da dicembre ci sono. Sì, già, ma anche più in mezzo. Tutto chiuso dalle reti, troppe reti ci sono. Non c'è più in mezzo. Devo bilanciare oltre a 7. E cosa ha messo come esco? Sì, già, vado a fare... A fare una commissione, se ci sono in dopo, vai. Non abbiamo ascoltato dopo. Ciao Claudio, ciao Gianni, e tutti gli eventuali amici che sono in ascolto. Guerriti per me, se ci sono dentro dopo, vai. Ciao a tutti. Ciao, ci sentiamo, Franco. Ma va, Franco, sta andando. Ciao Claudio, ci sono dentro dopo, magari, dai. Vado a fare una commissione, ricordi. Se siete ancora qua, se non guardo un po' di TV. Ciao a tutti, comunque, buona serata. Ciao. Ciao Francoli, scusa che stavo rispondendo al telefono. Ok, sono qua. Andare a dopo, dai, ciao. Ciao, ci sentiamo, fra parte Claudio. Ehi, ciao Fra, grazie, ho cambiato postazione. Avevo visto che ragazzi, sto andando a fare un gatto, eh. Ecco, adesso che hai cambiato postazione che c'è il K, dammi un controllo, così. Uguale, preciso identico, 9 più 30 attaccato, prova a sganciare, avesse segnato. Prova, guarda, 1, 2, 3. Perfetto già, perfetto, sì, uguale all'altra radio che ho fatto con la regolazione là, però poco fa stavo andando con l'Inoiti, sì, perfetto. Sì, sul più del 20 inizio e poi quando attacchi va sul 3 e così fai qua, 9,20, 9,30. E già va bene, la radio adesso buona. Sì, col K ti ascolto meglio, con l'altra c'hai, sono baracchini già, per quello che ho detto, quando sono col K ti devo segnare più, è meno satura col K, capito? K, va bene, dalla macchina quello ho fatto un bel lavoro, La macchina che c'è spettacolare, la macchina deve dare tutta la potenza, agganciato, è come che non... Fortissimo, cazzo, c'hai dei segnaloni allucinanti, perfetto. Ma l'ho passato. Che ha detto Belli? Cos'è il telefono? Rispondo. Claudio, sì. Claudio. Ehi, già, nel frattempo sono qua bene. Io sono qua. Bene, sta andando questa, sì? Filusso. Allora, io adesso ti faccio uso un altro... E voglio fare i passaggi per vedere se aumenta di radio, di Santiago, eccetera. Ok, quindi adesso sei liscio normale, ok? Adesso sono normale. Perfetto. Fare le prove che vuoi, che intanto sono col capo, e così ti arrivo preciso. Guarda il segnale adesso. Adesso ci è agganciato. K. Sì. Vai da 9,20 a 9, quasi più 30. Guarda adesso. 9,25. Guarda adesso. Quasi 9 più 30. Guarda adesso. 109.30 pieno. E guarda adesso. 109.30. Non ho metà da... No. Cos'è l'ultimo scatto? Capo. È come mio già. Il mio dal... aumenta sino a 4, poi 5 sino aumenta l'onda. E vabbè, ma che sei professionale? Io di professionale. Di professionale. Io sto parlando di quello del... di quello della ZG. Il professionale che c'ho io dall'RMI, poi quello già aumenta, sì. Solo questi della ZG non si viene a nulla. Così. Andava. Perché con lui dovrà essere Italia. E io? Ma quello non era con un momento, Cara. Ho capito, l'avrei portato. No. Capo pura perché l'ho portato un nuovo. E che marca, che cos'è? Che modello è? Come il mio, Il 503. Eccomi! Sono rientrato! Vai, tanto! Mamma mia, tanto sei veloce! Cos'hai detto già? 503. 503, sì, quello lì è praticamente quello più piccolo del mio, eh? Ecco. Ma tu ce l'hai ancora? Ma dove vuoi aggiungere? Ma non c'hai... Io ti ho visto... Senti, io ho il 747, il 1300 e due dell'RM Italy, uno però è VHF e l'altro è HF, HF per 030. Ecco, avanti. Ma ciao già, ciao Cla. Ho fatto una grotta, ho sentito. Aspetta che provo già la cazzola, perché ho sentito. Sul canale 1 in PMR? No, non ci sto mai andando sicuro, c'ho sempre fisso 7 io. Che secondo me sono assurdi, ci sono quelli dell'ospedale che stanno utilizzando le frequenze civili, nel senso in PMR, che è 446075, e stanno dicendo, stanno dando dati sensibili, io non lo so, ma sono fuori di testa. Ma saranno delle associazioni private, non è possibile, noi usavamo altre frequenze, no? A parte che c'è la frequenza 118, che è una cosa a parte per queste cose, però non lo so, hanno fatto qualcosa loro dall'associazione, non lo so. Ma l'ho sentito nominare, ho sentito dire anche che hanno chiesto di spostarsi, che stavano facendo roba per il coronavirus, roba del genere, stavano dando i dati per le pazienze che avevano il coronavirus, roba così. Ma infatti, siccome stanno dando dati sensibili, non possono farlo su frequenze che, dico, basta essere un po' vicino all'ospedale e ti stai sentendo tutto, ti stai sentendo nome, cognome, febbre, temperatura, glicemia, cioè mi sembra un po' fuori di testa questi qua. E quindi? Che? E quindi? Non ho capito. E quindi? Quindi non è, non lo possono fare, sono dati sensibili quelli. Vabbè, io ho evitato di parlare PMR perché c'è un... Sì, indubbiamente uno evita di parlare, però dico, non puoi mettere i dati sensibili degli altri in bocca a tutti, cioè, ma stiamo scherzando? Lo so, non so come funziona, come siamo organizzati, eccetera. Gianni, che colore è quello lì, nero? Nero. Non è come quello che ho io, sono il 1800. Nero, è un regalo di Natale che mi sono fatto. Sì, il regalo di Natale mi sono fatto un bel numero, ho preso... Però uso il M300 con i baracchini, anche se non lo uso, ma c'ho quello lì per i baracchini. Pronto, cosa ce la mettiamo questa antenna? Dai, decidi. Se non c'è soldi, doppio. Appena guadagno qualche soldo, magari già la metto, dai. Se me la regalo a Gesù Bambino. Cosa va? Già, ultima domanda. Cosa va? 24 o quello? 12? 12. Ah. Il mio anche a 24. No, no, questa è 12. Però c'è l'entrata, da 10. Da 10 watt. Oh, Antu, non dire cazzate, che non è il problema di dinastia. Ho fidato un'antenna, te la regalo io, guarda, te la compro io se te la vedi. Grazie, vai, fatta. Bella! Fatti trovare, te la compro io, tu mi dai su che te la compro. Siamo a casa, giusto? Babbo Natale, Freddy Gianni. Sta per avere, ma fammi entrare. Ciao, avanti. Gianni Magni, Edu. Riprendi Antonio. Papà, buonasera, eccomi, sono rientrato. C'è papà, Antonio, c'è per venire attaccato, Antonio. Vabbè, anche faccio freddo di piedi. Vabbè, dai veri. Anche se c'è che venire, ha detto di più nessuno. Ha convinto Zetto? Io sì, molto. Andiamo, va. Mi sente? Io non ti sento. Io sì. Mi senti, Anto? Sì, sei sceso di poco, di 10. Sei 9:15, Anto, ma allora ce l'attacchi a fare i falegnari, da bruciare, o mantieni correnti? Azionista dell'Enel deve essere. Una cosa, che un mi sta alimentando le switch, che non le fatti in punta. È come te che tu tratti la radio di quanta parte io tratto. L'amplificatore con la radio, tutto lì. Bella differenza, prova a riattaccare. Adesso hai attaccato. Figlia! Attacca. Ah, vai da vedere. Poi sì, da 9:20 a 9:10 scendi. Come fa qua? Qua fa 9:10, 9:20, va bene. Anto, se io metto questa radio a 50 watt, te ne leggi dritta tu, io la uso a 20 watt modulati, 10 di portante, non c'è bisogno, ho capito. Vabbè, dico che va a far andare, non è che li porti a nulla, tanto di stazionare gioca 1-1, cosa me ne frega, adesso già va bene, già, dai, questo locale già va bene così, dai. Massimo 20 di modulato. Se poi serve, come diceva lineare, tiri su la potenza e la porti a 50, 100 watt, non c'è problema, ma non serve a nulla, capito? Tanto per quelli che siamo tutti un attacco dall'altro, ci sentiamo tutti. Vai, Gianni, a proposito, l'hai preso da poco quello? Sì. Adesso? Quando? Più o meno? 2 giorni fa. Da 1 a 10 quanto? Per sapere se c'è molta differenza dal 500 all'800. L'ho pagato sulla 160, 68. Non ho capito che modello è. Ma RM Italy? Sì. Ho capito. Sì, c'era un modello che costava così poco. No, il mio passa da 200 rotti, 200... Allora, mi era venuto spedito 246 o 256, non mi ricordo. Cosa vai? Chi è tu che fischi? Sto raddusci già. Cazzo, ma oggi avanti gli spezzoni. No, ma sono io. No, non male. Chi è che vuole entrare? La Matterland. No, quello ne ha una persona. Molto, molto bello, l'ho provato. Mica, non è bello. Una bomba, Una bomba, santo, funziona bene. Quello però a due ventole. Molto, molto bello. E va sia a 12 che a 24 volts. Che già lo so con capiraggia. Quello lì sì, quello lì, bomba, Certo c'è poco, non è a meno, l'hai provato. A 24 volts l'ho provato. A 24 volts, cazzo, in seconda marcia, con l'alimentatore a 24 volts, perché mi aveva prestato anche quello per provarlo. Ecco, la T230 in scala 200 non ce la faceva, andava a fondo scala. giù, capito? 200 watt di scala, 200 watt di scala, sì, sì, Gianni, sì, è un modello, sì, come quello che c'ho io, è una ventola, però. Un attimo di QRX, capito, Gianni? Un attimo, chi sono una bella bestiolina a me? Chi sono bomba proprio? Ehi, ehi, è quello proprio sì. Quello proprio sì, però questo... Mi hai fatto vedere solo il frontalino. Solo il frontalino. Ma questo non è me. Vai, vai, vai. Mai a capire la causa, cioè esce bene gran parte della serata, poi all'improvviso di botto innesca forte, poi magari scompare. Boh. Ciao già, riprendi. Hai cambiato radio già? La radio c'ha qualche problema già, cazzo. Boh, è impossibile. Prova a cambiare radio a vedere. Non toccare gli spettatori, non toccare niente, cambia solo l'antenna da una radio all'altra. Sono un bijou Gianni, sempre perfetto, ordinato, con questa radio sul Galaxy, era una cannonata, è un periodo, boh, che sei sempre in avaria già. Io gliel'ho detto che gli hanno messo occhio. Ma stazionari a posto sono in quell'antenna. Beh, poi ci dici, non lo so, quando l'abbiamo piazzata a posto, poi non so cosa può essere successo, ma il problema non ha mai avuto un problema Gianni, mai, sempre spettacolare in tutto, sia di segnale, di radio, sempre. Attaccava la porta d'antenna e sempre a fusci. Guarda a vedere adesso, ci sono i fischi. No, allora vedi che la radio già. E poi c'era anche il microfono invece che la radio. Non lo so già, qualcosa c'è lì, nel Galaxy. Perché con questa sei spettacolare. E vabbè, uso questa adesso là. Dove magari c'è qualche cosa nel microfono. Adesso guardo per vedere se può essere il microfono. Sì. Ti ho dato un messaggio, tu hai preso quella cerca la ventola, sì, ma l'avevo detto che c'era anche quello. Io invece ho preso l'altro con la ventola perché c'ha 200 watt in più quasi. Capito? Va bene, comunque sono ottimi amplificatori. Ottima scelta. La numero uno, il remake era una brava. Come la chiamo la piazza? Era buono, non volevo arrivare a vedere se schierreggia il tuo. Se sono attaccato o no? No vabbè, io il mio l'ho attaccato per provare, poi l'ho usato per qualche settimana, poi l'ho attaccato. E non mi sento l'armadio, perché adesso spazio per quanto riguarda gli HF a mettere gli miei non ne ho, la verità. Lo spazio è molto limitato, ci sono le radio giuste con i microfoni giusti. Mentre invece nell'altra base posso metterlo, però devo attaccare qualche baracchino, capito? Vediamo. Comunque me la prendo pure io, no bello. No, non è problema. Ma lo voglio prendere qualche cosa. Quella cosa già è bella. Sono lineari che sono fatti bene, hai capito? Sono lineari che sono fatti bene. Quello è il modello nuovo che hanno fatto senza la ventola. Però è uguale praticamente. È uguale a quello che ho io, solo che il mio è un po' più alto di watt, di potenza, e c'è la ventola sua già incorporata bella grande. Marcolino sempre in piedi, che si dice? Sempre in piedi, sempre posato vorrei dire, o cucato o posato, via. Però stavo cercando di capire, quello che ha Gianni dovrebbe aumentare di più di 2 Santiaghi, dovrebbe aumentare di 2 Santiaghi e mezzo, non dico 3, tipo da 9,20 a 9,35, un po' di meno i 9,35, c'è un bel di watt, invece aumenta solo di 2, io volevo chiedere a Gianni esattamente cosa gli segna il wattmetro in sesta posizione. Quasi 30. Sai perché? Avete presente Francesco PLT, sarebbe Francesco Luna Rossa, lui l'ha provato ottimizzato, no? Quel tipo di lineare, quindi facendogli piccole tarature interne, mettendogli l'alimentazione, gli altro, vabbè, 100 ampere a disposizione, no? E in AM praticamente a strozzo da 250 dovrebbe darne, ma ottimizzandolo, no? Magari senza ottimizzarlo dovrebbero essere 200 comunque pieni, e quindi dovresti aumentare almeno 2 Santiaghi e mezzo, quasi 3, non dico 3, un po' di meno già, però più di tanto non spinge. E il pilotaggio te lo ricordi quanto gli stai dando esattamente? Sì, meno di 10 watt, ma ascolta, in vicinanza non si vedono queste cose, si vedono in lontananza. Aspetta però, lui c'ha il 505, io c'ho l'805, è diverso, capito? Perché il mio in terza marcia da 270 watt, in terza marcia, quando passo quarta e quinta siamo intorno quasi ai 400, sì, anche 400 pieni, capito? In AM però, in AM, in banda laterale della zombie di più. Capito? Quello lì è dato per 400 watt, è dato per 400 watt di PLT, quindi in banda laterale, in AM non li dà. Beh, Senta, dai, io sto andando, dai, ci sentiamo dopo. Poi apro il microfono, se non c'ho tempo che deve arrivarmi la roba da mangiare, se no quando la portano non mi trovano. Ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao, io mi sono imbarazzato, c'era mio genero con mia figlia. Capito, Marco? Quello è il 505, il numero nuovo, che hanno fatto senza la ventola, io c'ho l'altro, quello più grosso, e quindi è diverso, tanto è vero che il mio c'ha quasi 20 watt d'ingresso. Ciao Gianni, a dopo, dai, se ci sono. No Claudio, non sbagliare, lui c'ha quello con il 3 finale, l'ha detto prima, ha il 3 finale, tu hai il 5 finale, è tutta un'altra cosa, capito già, Claudio? E ok, 503 o 505 c'è lui? Il 3, 503, te l'ha detto prima, chiaro? No, ho capito, quello è 300 watt, è come un B300 quello. Sì. Poi naturalmente Claudio, io quando parlo di watt in AM, cioè la seguo la storia dei picchi in AM, no, dei watt picco che sono fasulli, cioè uno si può illudere di vedere salire a 400, 500, ma non sono reali. Ti ricordi quel video di Francesco Luna Rossa, eccetera, era spiegato chiaramente. Picco possono essere validi in banda laterale, ma in AM è una cosa illusoria. Cioè, le prove si fanno con la portante muta in realtà. Che modulati, sì, quella, la lancetta sale di certi smitter, ma poi non sono reali. Di certi watt, mentre ma non sono reali. In AM. Vai Claudio. No, ma infatti sono d'accordo che io questo picchio di modulazione mi sta dando, sta facendo assolutamente. Io ti sto parlando del mio, che l'abbiamo anche provato, ti ricordi che l'hai provato con te? L'ho provato con te, che è attenuato, da 5 andavo a 8, attenuato, o a 9, quanto era, adesso non mi ricordo. Il mio portante muta, facendo gli scatti, in terza, con lo terzo scatto, siamo già quasi a 300 watt, portante muta, senza parlare, no, capite? Poi, dal quinto e al sesto, cioè alla sesta marcia per esempio, alla fine, siamo oltre i 450 watt. Sì, certi sono dei mostri, certi, poi sai cos'è, quello va a 24 hai detto anche, no? O a 24, vabbè, gli ampere, il voltaggio è doppio, gli ampere sono dimezzati, vabbè, non c'entra niente, comunque, che finale monta, te lo ricordi tu il tuo? No, assolutamente, io ne ho provato uno a 24 voci che mi ha portato una persona, ed è veramente una cosa eccezionale a 24 voci, dai, il doppio del watt di quello che ho io, e sono simili, molto simili. Ehi, adesso facciamo girare, ehi, sì, praticamente se tu lo vedi dentro, no, il 3, non stare a ripetere sempre la sigla, ha 9 MOSFET dentro, tu conta il 747 alias 203, ne ha 4, quello ne ha 9, di cui presumo che uno sia il pilota, il finale, cioè il MOSFET pilota, e poi ben 8 di potenza, capito? E già è quello era molto molto carino. Più che altro parlo per la SSB, per i DX, non per la città. Vero Anto? Sempre attaccato Anto, riprendi. Capo, no, non sono attaccato, no, adesso. Mi viaggi, capito? Bello, fallo andare un pochino. E cosa vuoi fare? No, adesso normale sono, no. Sì, ma sei bello pulito, ecco perché spesso ti consigliamo di uscire liscio, perché siamo a un chilometro uno dall'altro, se ti fidi, e la modulazione così è limpida, pulita, con dei bei bassi anche, mentre vabbè, 78 plus per limiti del modulatore, non so, è più nasina, capito? Questa è molto calda con la modulazione. Che altro ci è rimasto qua? Io tanto adesso mi assento e... Emilio Caffè, chi c'è rimasto? Antonio Grotte c'è. Chi altri c'era? Antonio, ci sei? Siete chi c'è rimasto? E buona. Vedi, non prendere la messa, i TSO ti fanno, mi.